get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera a tutte. Mi dicono che non si è sentito nulla fino a questo momento, peccato, quindi vorrà dire che rifaremo tutto da capo, questo è il bello della diretta. E allora, ci sono dei problemi tecnici, io non capisco assolutamente nulla di queste cose, però andiamo comunque avanti. Benissimo, mi fanno ampi cenni, ampi gesti con le mani, perfetto. Allora, dicevamo, questa è la nostra 162esima trasmissione della calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane, nell'ambito appunto del martedì femminista e lesbico autogestito. Stasera abbiamo detto in studio ci sarà Tania, ci siamo io, Tania, e avrebbe dovuto esserci Annalisa, la quale purtroppo è malata, e quindi noi la salutiamo con affetto. Ciao Anna! Ecco, Tania si infila nuovamente come un bruco. E la salutiamo sperando che si rimetta molto presto e la invitiamo a non mangiare troppa certosa, lei sa per quale motivo. Dunque, Annalisa si dovrà rimettere, perché naturalmente martedì prossimo dovrà essere lei qui in radio, perché mica potrà pensare che tutte le volte io sia pronta a sostituirla, anche perché, come vedete, i risultati sono non proprio eccellenti. Dunque, se volete mettervi in contatto con noi, potete farlo mandandoci un SMS al 338 41 46 682. È arrivata in questo momento Monica, la salutiamo, la vediamo dal vetro. E se volete potete consultare il nostro sito internet, vi diamo, come si dice, l'indirizzo clrbp.it. Ci potete ascoltare cliccando sull'icona in diretta, ci potete ascoltare appunto in diretta, potete ascoltare questa trasmissione, e oppure potete anche mandarci un SMS al nostro indirizzo di posta elettronica, che è contatti@clrbp.it. Dunque, oggi parleremo di due appuntamenti del nostro gruppo, del CLR e anche del CFS naturalmente, che sono appunto previsti, uno per il 30 aprile e l'altro per il 13 e il 14 maggio prossimo. Dunque, il primo appuntamento appunto per questo sabato sarà la presentazione di un libro che si chiama Cocktail d'amore, 700 modi, 700 e più modi di essere lesbica, e sarà appunto presentato presso il Centro Femminista Separatista dall'Associazione per una Libera Università delle Donne di Milano, e di questo parleremo un po' più diffusamente più avanti. E l'altro invece incontro importantissimo, che si tiene appunto dal 13 al 14 maggio, sarà un convegno, niente meno. Vi dico anche il titolo, che è un po' difficile, quindi lo devo leggere, abbiate pietà di me. Il titolo sarà Soggetto lesbica, sovvertire il pensiero egemone per una riscrittura del simbolico. Anche di questo parleremo un po' più avanti. Adesso, se Tania, bontà sua, ci dà una mano, manderà un piccolo brano, così vedremo di capire che cosa è successo. Allora, buon ascolto. Allora, sabato presentiamo a noi del CFS in via Francesco di Sales 1B il libro Cocktail d'amore, 700 e più modi di essere lesbica. Quindi mi raccomando, venite dalle 19 in poi, c'è prima la presentazione del libro e poi una cena organizzata da tutte noi. E, comunque c'è scritto un articolo Rosanna Fricchetto che ci ricorda che la prima inchiesta sulle lesbiche fatta dalle lesbiche è stata nel 1985, il questionario del CLI, collegamento lesbiche italiane, che era composto di 218 domande che vennero poi anche ripetute nel 1995, a distanza quindi di 10 anni. Nel 2001 il gruppo Soggettività Lesbica, nato nel 96 nell'ambito dell'Associazione per una Libera Università delle Donne di Milano, ha affrontato lo stesso obiettivo con un deciso salto di qualità nel metodo e nei risultati della ricerca, e questo appunto ce lo scrive sempre Rosanna Fricchetto. E io per esempio ho letto che il gruppo, che è nato in realtà nel 95, però solamente nel 96, dopo un incontro con Teresa De Loretis, sceglie di chiamarsi Soggettività Lesbica. E per le loro iniziative e attività potete vedere il sito www.universitadelledonne.it. E nel 2000, dopo aver partecipato al Pride di Roma, decide di formulare quindi il questionario per raccontare delle lesbiche e per far emergere le loro diverse soggettività, per cercare di rompere gli stereotipi a cui vengono legate. Ma torniamo all'articolo di Rosanna Fricchetto. E rispetto quindi alle 500 copie diffuse dal CLI e dalla minore partecipazione all'iniziativa, perché furono allora di queste 500 copie tornarono 70 risposte, Soggettività Lesbica ha distribuito invece 3.000 copie del loro questionario con 150 domande, alle quali hanno risposto 700 donne lesbiche. E inoltre l'analisi di questo sondaggio è stata pubblicata nel libro Cocktail d'amore. E 700 e più modi di essere lesbica, stampato dalla casa editrice Deriva a Prodi di Roma. Non si tratta quindi di una semplice elaborazione dei dati. Il materiale statistico infatti è stato poi anche arricchito da interviste mirate, da testimonianze e da valutazioni collettive. L'introduzione al volume si apre con una citazione da Cassandra di Christa Wolf: parlare con la mia voce, il massimo. E articola in termini politici l'intenzionalità di dar forma al proprio vissuto e soprattutto di divulgarlo nel contesto eterosociale. Dopo essersi rese visibili le une alle altre, infatti, le donne del gruppo milanese hanno deciso di passare a quella che esse definiscono la visibilità pericolosa, con lo scopo di comunicare all'esterno la complessità della realtà lesbica, per smontare l'immagine stereotipa, per fare cultura e creare nuovi spazi di libertà di parola. E dunque la loro azione, a differenza di altri gruppi separatisti, vedi per esempio quelle simpaticone del CLR, che hanno invece fatto la scelta di esprimersi nel sociale femminile, costruendo una socialità lesbica e rivolgendosi con le loro iniziative a tutte le donne, ma soltanto donne, si dirige invece verso il sociale in senso lato. Pur essendo un gruppo di sole donne, Soggettività Lesbica intende infatti far emergere i nostri modi di autorappresentarci, di relazionarci con l'esterno e i conflitti che si muovono nella dinamica tra interno e esterno, lavorando alla possibilità di creare uno sguardo più libero per tutta la società. Le domande del questionario, quindi, analizzate in Cocktail d'amore, a parte la raccolta iniziale dei dati generali, un'appendice propositiva, sono divise in 7 aree tematiche: autopercezione e identità, famiglia d'origine, amicizie, relazioni amorose, maternità, rapporti sociali e politici, strategie di cambiamento, sognare si può. Vorrei effettuare qui una lettura comparata tra alcune risposte di oggi e quelle di ieri, verificando se e come sono cambiate le lesbiche nei 20 anni che separano il sondaggio del CLI da quello di Soggettività Lesbica. La sequenza degli interrogativi inizia con la fatidica domanda su chi è una lesbica, alla quale l'87,1% risponde una donna che ama le donne, mentre il 49% dichiara di usare la parola lesbica per autodefinirsi senza eccessivi problemi, considerandola per il 63,8% politicamente e socialmente rilevante o corretta. Commentano le autrici: si fa strada l'idea che il termine lesbica possa passare attraverso una modificazione, da veicolo di stereotipi a parola che indica uno dei possibili modi d'amare. Nel campione del CLI di 20 anni fa la situazione era la stessa. Dunque non ci sono stati significativi spostamenti rispetto a questo, dopo la storica riappropriazione collettiva lesbo-femminista di un termine che in precedenza veniva usato e percepito come un insulto. Anche la scoperta del proprio lesbismo continua ad avvenire in maggioranza prima dei 20 anni e ad essere prevalentemente accompagnata da sentimenti positivi. L'accettazione di sé appare invece decisamente inferiore a quella dei dati raccolti dal CLI, ma resta comunque molto alta, 74,1%, e appena l'11,9% preferirebbe non essere lesbica. Nel 1985, nel clima entusiasta che accompagnava gli inizi del movimento lesbico, erano solo il 3% ad avere una vita per avere una vita più facile e meno faticosa, quindi a desiderare di non essere lesbiche. Quindi il 3% contro, diciamo, il 12%. Aumenta però il desiderio di cambiare sesso, che dalla minima percentuale di 5 su 70 nel 1985 arriva al 9,8%. Io, Rosana, mi sono fatta due conti, in realtà 5 su 70 sono praticamente il 7%, quindi in realtà questa differenza non è poi tanta. Oggi, quindi ieri era il 7%, oggi il 10%, quindi forse in realtà questa differenza non è rilevante. Un po' di musica? L'accettazione di sé come lesbica non corrisponde una pari accettazione delle altre donne lesbiche. Questo dato, che ricorre inalterato rispetto al vecchio questionario del CLI dell'85, è, secondo Rosanna, veramente preoccupante e merita una seria riflessione. Anche perché, come sottolineano le curatrici, nella percezione che si ha delle altre lesbiche si manifestano le proprie proiezioni, paure e insofferenze. Alla domanda "ci sono tipi di donne lesbiche nelle quali hai difficoltà a riconoscerti?", ben l'82,1% risponde affermativamente. Nel questionario del CLI dell'85 la percentuale era del 77 e nel 95 dell'82, quindi più o meno la stessa dell'ultimo questionario. Lo stigma sociale lesbico si indirizza per il 44,6% contro le donne esteriormente maschili, quindi la vecchia dinamica butch femme. E dunque il 77% abbiamo detto, mentre nel 95, no scusatemi, lo stigma sociale lesbico si indirizza per il 44,6% contro le donne esteriormente maschili, con una percentuale che aumenta proporzionalmente al titolo di studio di chi risponde, segnalando una chiara differenza di classe. l'ostilità verso questo tipo di visibilità sembra essere una conseguenza di quello che il 44,6, quindi la stessa percentuale significativamente, definisce come l'aspetto che crea maggiore disagio rispetto al proprio lesbismo, e cioè non sentirsi libera di vivere apertamente. Una relazione causa-effetto sulla quale vale la pena di meditare, perché solo liberandoci dal meccanismo della proiezione delle nostre paure del giudizio sociale potremo essere meno autopersecutorie e più amorosamente solidali nei confronti delle altre, offrendo loro un riconoscimento che ci è necessario e indispensabile come l'ossigeno. Le idiosincrasie del questionario del CLI del 1985 erano ben più variegate. Comunque la maggioranza delle risposte condannava anche lì gli atteggiamenti maschili, ma senza riferimento all'esteriorità. Era più presente la critica dei ruoli, mentre le separatiste invece venivano criticate da appena due donne, e il 97%, l'83 nel 95, quindi 10 anni dopo, affermava di sentire il bisogno di spazi separatisti di incontro tra donne. Un altro elemento che Rosanna vuole sottolineare è il fatto che nel 1985 il 68% delle lesbiche era venuta fuori in famiglia, mentre oggi la percentuale non solo non aumenta, ma diminuisce al 57,3%, quindi quasi il 10% in meno. Ed è un dato che contrasta clamorosamente con l'aumento dei coming out politici e sociali. Finiti gli anni del personale politico, le lesbiche in questa fase sembrano delegare ai personaggi pubblici la visibilità, quasi cercando una conferma indiretta della propria legittimazione, oppure una rivalsa psicologica al problema della loro doppia vita. La frequentazione delle altre donne lesbiche è oggi più legata ai locali, alle case private oppure a internet, mentre la percentuale di partecipazione a gruppi e associazioni lesbiche diminuisce dal 60% dell'85 al 47,2% di oggi. Un dato significativo da approfondire è che si manifesta un calo di interesse nei confronti del riconoscimento legale delle coppie conviventi, appoggiato dal 76% nel questionario del CLI del 95, dall'89% nel 95 e invece dal 63% nell'attuale rilevazione di soggettività lesbica, quindi ben il 13% in meno. Il rapporto con il femminismo, in coincidenza dell'alleanza di molte lesbiche con i gay, si è allentato. Mentre nel questionario del CLI dell'85 si dichiaravano femministe l'89% delle donne, quindi una percentuale molto alta, nel 1995 la percentuale calava già al 67%. Nell'ultimo questionario cala ancora fino al 56,7% nel questionario di soggettività lesbica. Le politiche anti-identitarie evidentemente non favoriscono certo la identificazione reciproca fra donne e fra lesbiche, anzi consolidano il disprezzo e il disconoscimento per le proprie simili, la progressiva estraniazione culturale e politica dal proprio genere. Questo meccanismo, nello stesso tempo, viene però negato, come tutti i meccanismi, compensandolo con l'adesione ad una immagine rappresentativa femminile, il cui parametro resta pur sempre il maschile. I sentimenti di insoddisfazione, di rabbia, di frustrazione, invece di essere diretti verso il sistema patriarcale di oppressione delle donne, che include la costrizione all'eterosessualità e all'eterosocialità istituzionalizzate, vengono invece quindi diretti verso le lesbiche maschili, un bersaglio ben più facile e inferiorizzabile, oppure verso le lesbiche infedeli all'immagine accettabile del femminile. All'ultima domanda del questionario, come ritieni si dovrebbe o potrebbe fare per migliorare la condizione delle lesbiche? Perciò Rosanna risponde: coltivare il nostro amore tribale, imparando a farlo nella relazione privilegiata fra le donne, nel confronto fra le nostre esperienze, le nostre realtà e i nostri desideri. Ne abbiamo bisogno in un mondo inquinato dalla misoginia della cultura dominante e dai suoi derivati. Abbiamo bisogno di filoginia, una parola che non esiste se noi non la inventiamo e oltre a pronunciarla non la pratichiamo. Una parola che lascia all'altra la libertà di essere se stessa, quella libertà fondamentale che non avendola difficilmente potremo comunicare a chiunque. Qui finisce la lettera di Rosanna, l'intervento di Rosanna. Noi adesso vi mandiamo un brano musicale e ci risentiamo subito dopo. Thank you. cambio musica, ma è che l'altro CD Fasullo ovviamente non lo leggeva, quindi ora ve ne do un'altra, va? Kiss, mentre prima sentivate Thievery Corporation. La Fiocchetto Rosanna non ha parlato della maternità, vi voglio leggere dal libro uno delle domande, la domanda 99 sulla maternità. E la domanda è: desideri o hai desiderato avere figli? E la risposta è sì, per il 17% sì molto intensamente, e per il 45,9% sì in qualche circostanza, per il 34,2% no. E su questo io devo dire sono stata contenta di leggere questa statistica, perché una donna su tre dice di non avere questo desiderio di maternità, quando invece in la società in generale, o anche mio padre per esempio, ci vogliono sempre far credere che la maternità è così naturale che da essere obbligatoria, e quindi invece non risulta essere così. E poi invece tra le altre cose che ho letto viene fuori anche che per quelle che invece vorrebbero essere madri non è poi invece così facile, perché solo circa il 16% ci prova, e di queste solo il 6% ci riesce, per cui insomma diciamo se non sono una su 100 poco ci siamo, poco manca. E per esempio le leggo anche dal libro: la questione del rapporto tra desiderio di maternità e desiderio di normalità è stato più volte sollevato come uno dei tanti fattori di condizionamento affettivo-culturale della famiglia di provenienza e dei modelli sociali di riferimento. Quante ragazze o giovani donne non hanno avuto a che fare con sensi di colpa verso i genitori, in particolare per il fatto di non poterli rendere nonni? Oh, mi fanno cenno di no, sia Monica che Rosina. Vabbè, per me è stato così, quindi io l'ho sottolineato. Invece per quanto riguarda, vi volevo leggere qualcos'altro per quanto riguarda la sessualità. Per quanto riguarda la sessualità, una domanda 84 dice: come ritieni la tua vita sessuale? Soddisfacente, insoddisfacente o migliorabile? Soddisfacente 49%, insoddisfacente il 7,8%, migliorabile 39,7%. E quindi insomma possiamo dire che all'incirca quasi l'80% delle lesbiche sono comunque anche se si può migliorare, ma insomma mi pare soddisfatto, e quindi di questo sono molto contenta. E poi dice l'altra domanda, dice: nei tuoi rapporti sessuali raggiungi l'orgasmo? E il 49,2% risponde sempre, beate loro, e invece il 36,5% dice spesso. E quindi comunque sono dati che ci fanno piacere. E invece altre righe che ho sottolineato qui all'interno del libro dicono: la tendenza alla fisionalità è stata letta, La tendenza alla fusionalità è stata letta da un filone di terapeute americane come principale responsabile della caduta del desiderio sessuale. Leggi anche sindrome della morte del letto lesbico. E se non si mantiene quindi la propria individualità, se non si recupera la possibilità della differenziazione e del conflitto in una relazione, manca l'aria. Questo non l'ho detto io, E poi ultime cose che vi volevo leggere era invece per quanto riguarda le relazioni amorose, la domanda 65 dice: la tua prima relazione sentimentale è stata con un uomo? E risponde sì il 62,5%, con una donna il 35%. E ti sei mai innamorata di un uomo? Rispondono sì il 54%, no il 44%. Poi un'altra domanda: hai mai avuto relazioni sentimentali con un uomo? Sì il 73%, no il 24%. E hai avuto rapporti sessuali con un uomo? Sì il 68,6%, no il 28,9%. E quindi a questo poi volevo aggiungere un pezzo che avevo letto e dopodiché passiamo al convegno. Rosina, preparati. Quindi su questo volevo leggervi il pezzo su un'intervista fatta a una donna. Le prime relazioni amorose e la scoperta del mio corpo sono avvenute con l'altro sesso. Mi ci trovavo bene. Credo di essere stata fortunata. Ho spesso trovato uomini attenti, disponibili ed esperti nel procurarmi piacere. Ma è con le donne, amiche, che mi giocavo di più nella relazione, affascinata dalla loro personalità e dal grado di intimità non fisica che riuscivo a raggiungere, il raccontarsi tutto, il sentirsi capite, l'intesa. È così che mi sono accorta di essermi innamorata, sentendo che il grado di coinvolgimento emotivo con la mia amica era più forte di quello con l'uomo che credevo di amare. Il mio percorso ha poi per molti anni oscillato fra i due sessi, ma dopo il mio primo vero rapporto di coppia con una donna non mi sono più innamorata di uomini. Con lei ho vissuto la pienezza e la profondità del desiderio e dopo aver sperimentato quanto è bello affondare tra le braccia di una donna e non solo tra le braccia, lasciarsi sprofondare in tutti i sensi, sentirsi desiderata e accolta, perché rinunciarci? E su questo mandiamo un po' di musica. Yeah, let's do it like this. If I was your woman and you were my man, you'd have no other woman, you'd be weak as a lamb. If you had the strength to walk out my door, my love would overrule my sense and I'd call you back for more. If I was your woman, if I was your woman, and you were my man. Tratta questo cocktail d'amore, quindi vi aspettiamo sabato prossimo alle 19 al Centro Femminista Separatista per discutere a via San Francesco di Sales 1B, mi fanno notare dalla regia, ma pensavo che ormai lo sapeste tutte quante. E ripetita Juvent, com'è che si dice? Esattamente così, Rosa. Esattamente così. E quindi possiamo parlare del convegno che appunto si terrà dal 13 al 15 maggio prossimi presso la Casa Internazionale delle Donne al Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B, Mocevo, e il cui titolo appunto sarà Soggetto lesbica, sovvertire il pensiero egemone per una riscrittura del simbolico. È stato un titolo molto complesso, da soffertissimo. Non dico che ci siano state delle spaccature su questo titolo, ma quasi. Comunque alla fine alla fine ve lo puccate, mi fanno notare alla mia destra. Dunque, l'idea di questo convegno ci è venuta perché inizialmente in realtà volevamo presentare gli atti di un altro convegno, quello di Tolosa, che generalmente si tiene a Pasqua, e che dal 2004 è un appuntamento appunto biennale, ormai consolidato. E al nostro convegno, al nostro incontro di Roma, interverranno alcune delle ospiti di Tolosa e naturalmente i gruppi italiani, che appunto sono il Coordinamento Lesbiche Romane, che è qui presente, il Centro Femminista Separatista, il gruppo Fuoricampo di Bologna e l'Associazione Separatista Desiderande di Bari. E fra le ospiti straniere ci saranno Cathy Barask, Michelle Kuss, Daniel Charest, Jacqueline Julien, scusate il mio francese è veramente orrendo, e per le italiane ci saranno Rosanna Fiocchetto e Simonetta Spinelli. E, dunque, perché soggetto lesbica? Un soggetto che si nomina lesbica rappresenta una identità e all'interno di una pratica di relazioni con donne e fra donne decostruisce la dualità maschile e femminile, quindi coglie l'autoinganno del pensarsi al di fuori di questi due generi, maschile e femminile, quando in realtà si continua invece a subirne l'influenza attraverso la fiducia del neutro. È molto complicato da capire così su due piedi, però se voi verrete al convegno naturalmente riuscirete a capire tutto, a partecipare con noi. Abbiamo pensato di porci delle domande, ad esempio da quali visioni muove la nostra necessità di riscrivere il simbolico che ci riguarda, con quale strategia possiamo smascherare le trappole del linguaggio, quali sono le genealogie, le forme della memoria, le modalità di trasmissione con cui identifichiamo gli strumenti per riscrivere il mondo, il nostro mondo. I movimenti lo riscrivono i movimenti che rivendicano l'omologazione alla coppia eterosessuale, eterosociale, alla famiglia come luoghi di privilegio. A tutte queste domande cercheremo di dare una risposta durante la 3 giorni di questo convegno, nella speranza che rappresenti una pratica percorribile per sovvertire e ricostruire l'ordine dato. E vorremmo farlo appunto partendo dal nostro posizionarci come soggetto lesbica. E il convegno, oltre agli interventi delle ospiti e dei gruppi organizzatori, con il dibattito con le presenti, prevederà anche una mostra fotografica e pittorica di artiste, una cena a cura del Centro Femminista Separatista e uno spettacolo teatrale con una festa danzante. E molto sinteticamente vi dico più o meno come si articola il programma. Quindi il 13 maggio alle 19 ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica e pittorica, che si intitolerà Immagine Parola ed è curata da Grazia Ursini e Emilia Marzocchi. E le artiste che esporranno sono Loredana Baldin, Emilia Vitale, Grazia Ursini, Luchi Massa, Maria Onetti, Mimma Pisani, Emilia Marzocchi, Pina Nuzzo, Paola Pieretto e Petra Bialas. E il giorno successivo alle ore 10 appunto ci sarà l'apertura dei lavori, che andranno avanti per tutta la giornata. Poi la sera ci sarà la cena e alle 22:30 lo spettacolo teatrale Primo Piano di Elena Rossi con Angela Soldani. E per la prima volta a Roma dobbiamo sottolineare, quindi questo è molto interessante. Sì, questo spettacolo, sì, ovviamente per quanto riguarda Elena Rossi e Angela Soldani, le abbiamo già viste a Roma. E Elena Rossi è una drammaturga lesbica che ha esordito nel 96 con L'Annuncio, nel 98 con La Batongheide, rappresentazioni sempre messe in scena con la bravissima Angela Soldani. Questo è uno spettacolo che si preannuncia divertente e reale quanto gli altri. La sua attività teatrale nasce dal desiderio di avere uno sguardo ironico su temi e problematiche lesbiche e così ci introduce a questo spettacolo scrivendoci questo. Come si fa a vedere il quadro di insieme se non si toglie l'occhio dall'obiettivo? Primo piano di coppia lesbica, Aliska e Mirrina, si amano di un amore eterno e totalizzante, e forse un po' soffocante? Vivono nella stessa casa, condividono lo stesso lavoro, si amano talmente tanto che si lasciano senza capire bene perché, o meglio vengono sulla scena, una dopo l'altra, a dare spiegazioni e offrire ragioni. E poi la vita, le storie, le relazioni continuano, esattamente uguali a prima. Si possono cambiare lenti e obiettivi, ma la foto resta sempre la stessa. Assolutamente sfocata, insomma, tu ci vivi insieme, ci lavori insieme, stai sempre insieme. Io mi sarei già suicidata, per fortuna che c'è la canetta. Del convegno vi vogliamo accennare a quello all'intervento che farà il coordinamento Lesbiche Romane, che è un intervento su Valerie Solanas, autrice di Scum, a partire da Valerie Solanas, e si intitolerà La mistica dell'utopia. Fra le donne che hanno costruito una prospettiva diversa del mondo, Valerie Solanas, con il coraggio della sua visionarietà, ci ha indicato un linguaggio in grado di rivelare gli inganni del sistema dominante e di scardinarne il pensiero egemone. La sua fantasia utopica rappresenta per noi una forma di insubordinazione con cui risignificare il mondo a partire dalle nostre esistenze. Quindi questo sarà il tema trattato dal coordinamento Lesbiche Romane. Speriamo che venga bene, ma insomma, immaginiamo proprio di sì. Mentre invece Desiderande e Fuoricampo si occuperanno di diritti con un intervento sul tema Il rovescio del diritto, integrazione o autorappresentazione. Dania Charest compie un'analisi critica della politica integrazionista che perpetua l'adesione ad un modello delle relazioni umane di tipo conservatore basato sull'eterosocialità e sulla sacralità del numero due. Le sue considerazioni rappresentano quindi un'occasione preziosa di riflessione per la comunità lesbica italiana, suggerendo una voce diversa che combatte radicalmente le istituzioni reazionarie e frena la corsa legislativa sostenuta a maggioranza dalla comunità omosessuale al volervi appartenere a tutti i costi. Questo per quanto riguarda i gruppi organizzatori del convegno. Le ospiti francesi parleranno degli interventi che hanno già portato a Tolosa, E io direi che per il convegno possiamo, anche perché siamo addirittura quasi di arrivo, quindi direi che possiamo chiudere qui per il convegno, naturalmente rinnovandovi l'invito a venire al Centro Femminista Separatista dal 13 al 15 maggio. E siate presenti in molte, che ci fa piacere, il convegno sarà interessantissimo. Adesso vi daremo qualche appuntamento e poi finalmente ci saluteremo, ci risentiremo martedì prossimo. Notizie e appuntamenti, vogliamo dire che è stata la comunità LGBT internazionale si sta mobilitando per promuovere una giornata mondiale contro l'omofobia, da celebrarsi il 17 maggio di ogni anno. Arcigay ha aderito all'appello e si è fatta promotrice per l'Italia attraverso una commissione appositamente istituita all'ultimo Consiglio nazionale per la celebrazione di una giornata mondiale contro l'omofobia, da celebrarsi ogni 17 maggio, giorno in cui nel 1990 l'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità cancellava l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. E solo nel 1990, io mi pensavo nel 70. Comunque... Già più di 30 nazioni hanno aderito all'appello. In Belgio è stata presentata una proposta di legge per l'istituzione della giornata. Dal Parlamento europeo hanno dato ufficialmente l'adesione il gruppo dei socialisti, il gruppo ALDE, liberal democratici, il gruppo Verdi, l'intergruppo gay e lesbico e altri gruppi sono in procinto di dare la loro adesione. Rosina, tu volevi leggerci un'altra cosina, vero? Sì, dunque, sempre rimanendo in questo ambito, dal 24 al 26 giugno ci sarà una 3 giorni di convegni e spettacoli con le associazioni di tutto il Sud per il Gay Pride a Salerno, tutto in onore del Papa Ratzinger, il Rottweiler di Dio. Gli omosessuali di Salerno partono appunto da un documento che nel gennaio del 2003 Ratzinger aveva rivolto ai politici, nel quale appunto invitava per iscritto i parlamentari italiani a conformarsi ad una morale vaticana, assumendo precisi atteggiamenti frenanti sulla omosessualità, sulla sessualità, sulle unioni di fatto, sulla bioetica, sulla ricerca e così via. Il documento di Ratzinger ribadeva 3 concetti fondamentali, e cioè che la Chiesa definisce come disordinati mentali gli omosessuali, che nega un valore positivo all'amore omosessuale e, in quanto essere umano, accoglie l'omosessuale per tentare di curarlo attraverso la castità innanzitutto. Se il buongiorno si vede dal mattino, questo sarà un papato veramente interessante. Ad ogni modo, visto che è morto un papa, se ne fa un altro, chissà chi ci toccherà la prossima volta ancora. Bene, io direi che per questa sera è veramente, veramente tutto. Vi lasciamo alla musica. Grazie. Per essere stata con noi. Grazie per essere state con noi. Ringraziamo soprattutto Annalisa per averci messo in questa situazione. Speriamo che si senta meglio. Allora, a martedì prossimo per la replica di questa trasmissione. E vi ricordiamo naturalmente di intervenire sabato prossimo e poi ancora per il convegno dal 13 al 15 di maggio. E è veramente tutto. Grazie ancora per essere state con noi e buonanotte. It was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, ooh, ooh. The night was long, the night went on. People cooling out to the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. Hi. See, I picked my friends like I picked the fruit. Again, he told me that when I was only you. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. Working pleasing me goes, I can't please you. And that's